sera non mi piace accoricarmi. E la mi tocca a fare, lo brommi, lo fai nulla, dunque. E lei tu da che cosa la devi fare? Che sei poco mai sicuro. No, e quando mi abbiate da che cosa fuggi? A voi famiglia, per un poco, e allora oggi magari, siccome domani è la festa, la mamma è vera in secca, e la seppi in giro, girando lenti in giro, la buttava la capitola, ho parlato così chi sono, che sembra un treno non mi la fa, che poi gira via tutto mangiando, gira che ti gira, gira che ti gira, speriamo che l'abbia fatta Romanco. Su Graziano e Malandrino, voci, bisogna andare ancora da Edo, bisogna andare, anche è più Malandrino di me, Isso. Ma se cavalli sono riusciti, sono andato al supermercato, all'azzurra, non ve giunta, lui non vede niente, no, da voi, dai tipi, sono andato a pulirmi la benzina, mi ho controllato le gomme, mi ho preso le sigarette, mi ha portato a Torres, poi sono sceso al latte dolce a prendere il pane in quella panetteria. Sapete che arrivi da noi che me l'ha già usato io, se che ho mai fatti bene questo cucciumbo, fatti non andi giù a fabbrica, se veramente lo fini a vinci sul supermercato, lì chi sa panetteria, lo va a pesci, e lo sa avuto. E a chi lo sa ragazzi che fa sono lì, e allora ti racconto un lendi, dia, c'è una macca. E ho già così. E sta bene così con Biretti, Graziano. Catta, io se fai sentendo non si vedeva più, catta. Evidentemente la gli ha convinta oggi, invece tu hai fatto tanto, l'hai demoralizzata, allora prova la mano in terra. Ah, per avete già l'ho fatto un incontro di una fiamma e che si... Ciò su, faccio una metà di minuti e mi sono cantato. Oh, Bobo, lascia lì. Cosa da dirti? Non bisogna mica passare, no? Dice Graziano, lui. Però si apre la grubbia che era io. E poi, infatti, ti rasettelli. Te la settende, ma tu ti vedi più, cazzo, boh, e se non lasciati un momento, e chi ha ragione? No, no, anzi, la giudici, ciao, e arrivederci, cazzo. E beh, come mai non ci sei sceso in campagna, Giommaggio? Oh, sono sceso, no, c'era quello lì, stamattina. Mi ha messo il coprifilo, ha messo, però una non andava bene e allora me le porta, e così che me la porta martedì, il resto è tutto fatto, capito? E così che non sono sceso anche per quello, stasera sono sceso dopo pranzo, ma me la sono fatto subito in quanto non avevo voglia di fare niente, ho controllato, ho andato a mangiare quegli animali e me ne sono salito subito, capite? E no, e nemmeno domani ci scendo, domani sono invitato a Ottava, domani c'è mentre la lira. Ehi, come ti vai a chi? No, troppo minori erano, stretti quel coprifilo. Ma li ha fatti più... No, quelli stretti ce li aveva portati via dall'altra volta. Capito? Allora li ha rifatti nuovi, li ha rifatti da 7 centimetri, li ha fatti adesso, Li ha fatti da 7 centimetri, grazie a... Però ce n'è una che, no, che non gli piaceva nemmeno a lì, allora dice che l'ha rifatta nuova, capito? Per cui l'ha portata via e l'ha rifatta nuova. È tutta un'altra cosa, grazie. Guarda, è tutta un'altra cosa. Però non te le faccio vedere finché non metto anche il portone. Ah, se il portone e me lo porta sabato, però adesso vedo un po' a chi mio nipote non c'è, è a casa, dice che non vuole più piazzare, lui adesso vedo un po' se trovo qualcuno, c'è uno che forse lo piazza, adesso vediamo un po', dobbiamo parlare là. Se poco vise, e gardocca, infatti, no, sabato me lo consegna, capito? Quello me lo consegna sabato, perché il pannello che c'era non mi piaceva, capito? Allora quello lo devo togliere e metterci l'altro pannello davanti, capito? Che lo volevo diversamente io. E devo fare quel lavoro, togliere quel pannello davanti e mettercene un altro, capito? Ma l'ha già levato il pannello. Com'è? Il pannello, quello originale, ne l'ha levato già. No, ma quello non l'ha levato, no. E perché i pannelli li prendono mica a canna già pronti. Ne sfila quello e ci infila quello là. E fa così, grazie. Ma siccome è l'ultima cosa che volevo fare io, capito? A me mi piacciono le porte adesso, capito? E c'è che adesso le porte sono già quasi pronte, c'è quella da fare quella lì, una sola ce n'è da per rifinire, che ci manca il pezzo di su, ci manca. Ed è tutto pronto, capito? E sabato me ne porta il portoncino, capito? Sabato tu non sei uscito già ronzo. Lo arrivo, ma così mi occupa uno. Capita, a cercare pecore le smarrite. E anche il papà che mi ha migliato. Se vai lì, in Piazza d'Italia, adesso non lo so se ha cambiato. Tanti anni fa lo sai chi ci andava in Piazza d'Italia, Miglio Maria forse lo sa. Tutte le donne di servizio che lavorano qui a Sassari, dei paesi. Addirittura Miglio Maria. Già lo vedo, di 4 anni fa. E ci ha battuto a Guennari. Tanti giovedì e la domenica. E sappiamo che era sciani, allora andavano a ciappare dentro a Piazza Italia, capito? Ma adesso ce ne sono pochi però, adesso la maggior parte si bagnate prima di uscire. Ma prima era così, non sapevi Natale, si vuole cacciare. Ma io quando mi so com'è andato a Piazza Italia a cacciare, si è cacciato da altre parti io. Cazzo, li vedi poco, niente, attossata, lì, riga, come te arrivi a lì, si vedi a 3 chilometri che erano in Maesane. E lì? Allo, Gio Mario. A noi. Altri tempi, prima. Toccava all'uomo stare ore, aspettare, adesso invece è la donna che aspetta all'uomo, è tutta rovescia adesso, grazie. Mi subuglia, è vero, ma penso non ve ne siano più, di chi sei, che andate a Piazza d'Italia, passi già, ma passi lì, fa bucare sull'uomo, Natali. Una va a fugare, è un capo di chiudorra. canti domenica in bianco, grazie, domenica in bianco. Certo, è stato Siccio vivi, oltre la marmora, attaccato la contramarda, a fare, e sa, se l'intrega, te lo farà, perché voi sa che non aveva le sci, capita, me la mento una, Vai a camicia a vecchi, no, cagà, fai alle due lanci. Incidenti, era un po' difficile, era, è un po' difficile, ma no, adesso è facilissimo, più facile di adesso non, è, non esiste più, ormai, sono chiedi che vengono attaccati, mentre prima era mio, ma basta, sono chiedi che vengono attaccati a rompere i capri, che è vino a Tari. Allora, Cristina. Capita tutta attirata pensamento a cui un ultimo bottone abbuttuato, la vasetta a duplo spissotto del ginocchio, le scarpette della domenica, lucide con il tacchetto, la forzetta e paglia la caccia alla buccia. Grazie. Fare di bene la cura. Comunque ha fatto bella giornata, ha fatto quel venticello che c'era, ma mi sembra che ha diminuito. Cazzo, l'ultima non la sai, Gian Mari. Illumina, illumina, di nuovo non ha più corretto, illuminami. E non mi ha portato Paoletta dal bossetto, un pacco di biscetti e tre o quattro quaglie surgelate. La scorsi, un pegame è nata, lo marmaro del vascone. Cazzo, a mezz'ora, quando sono cotturato, mezz'ora e mezzo, anche preparato la graviglia. Con quella tutta, la pacco, gli dico, poi la carina ha usato, va preparata. Ti dico, con questa, la bella è l'ubbina, non te capo le capre. Ma che cazzo io voglio, e adesso il frigo, boh, a fare di nuda. Ti dico, che si fa l'addaggioso. E non mi sta appoggiando la borraccia, lo bacco della garra, con i guagli e i bicchetti, due bacchi, sento un contenitore di plastica, io so usare un contenitore, la garra è parita. Ecco, a proposito, aspetta che a me mi hanno portato tutto un po' il mercato, un attimo che devo guardare una cosa. Ehi, vedo a tutti tu, ragazza, grazie. Allora, tu ci andai a corraccia a fanata ieri, chissà. Prima di mezzi. E papà mi sono ricambiato pure in giro, grazie a. Che ho cessato di ricambiare in giro. Certo. Ma che ti sono un bel ricambiare, io che cazzo era attrumato in quelli che non ho mangiato. Come c'è stato che puoi mangiare gli altri. Poveri. E pane, certo, si che pane, e poi da ciburri chi sa ricambiare nei graziati. E la corraccia, che viene una, dopo da l'altro sono punto, la prima a mezz'ora, sempre a Baitenne, e anda a torre, ci s'appoggia innanza la tromba, il rumore, la franca bicchia della tromba di Riccare, no? E cazzo, prima, io a Baitenne sempre dai scappassi, E la poi fate dai ghibi agli salmoni di bino che fai noi, dai salmoni di bino torna ai ghibi. Sicuramente mi ha pigliato la ghisa, metà grossa è me. Chissà che sta cosa di busta, chissà corraccia magari. E la prossima volta torna a punire le cose, i ghibi, alla manco si ingrassa a me. E da poi... Poi qualche cosa è per carezza, c'è la cucinese a posto di riguagli, grazie. Ma guarda tu, mai me la zappiccata, se stavate prima di scegliere, ma di qui la bucanina, questa cosa la arriva, pure è nata la lavandino, con le gambe, e me ne sono dimenticato, niente l'ha fatto la vista. Boh, hai ragione, che fa sempre di niente, che... Sta attentato che sta sempre di niente che. Ma non ti capito per l'avuto però. E giù l'ha trovato nel cortiletto, che da me già l'ha trovato. Perché ho detto, beh io sapessi se è parata io, perché era appoggiata come te la pagliare di un cantone. Un canto di sfidato, una stessa al cucciolo, dagliamo gli occhio. Poi parla da giorno e si li rapigliate. A chi giorno non dagliamo i vera tra gli altri netti. Però le pacche della carne non c'erano. Ma non è invece chi si farà da alcuni a voi a visto la visione sarà che si sta appoggiando da no fa alcuni ieri grazie a e non magari tu ci sei disoccupato che la corraccia va sai può capitare quello visto ma davvero magari no che non per guardare nessuno è raro che c'è non fai quasi nessuno giù o la mattina qua e vai che se mi raccogli pure si vedono due barche così congelate no chi c'è sicuramente la corraccia l'avrà gassato un pacco mi che pigiava mi aveva lasciato più di un chilo di roba in tutto me. Erano due barche in quei sacchetti no legati. E sicuramente ne ha pigliato uno, si è parlato, lo tagliamo e ne ha preso la parata e si ne ha fatto altro. E ha fatto due viaggi. Cioè, e si era mangiati, ha visto la tariffa, la curraccia. E l'abbiamo tentata edda, ma abbiamo mangiato edda, si possiamo ringraziare. No, che magari era congelata ancora, non penso che ce l'ha già mangiata, se l'aveva buscata, è nata la gabbicciola qui, anzi è nata la cornicione, da poi si separa a Trento, da poi la vedi, torna a passare all'albero di Rubino, dove si separare i runici chivi, da poi torna lì, sul davanzale, nel muro, no, nel cornicione, poi ci scende dentro il tetto. Se si era buscata lì per essere scongelata e si era mangiata, ma addirittura se l'ha già scongelata, se l'aveva pure sbalata, e ma mica voleva mangiare, perché mi pare che era lì 5-6 bicchette di tutto quell'uso, tre quaglie nell'altro pacco, e cazzo, più di un chilo di roba, vera. Sì, aveva chiamato ieri, aveva chiamato, se lo vedeva così, aveva chiamato la cresta e stavano i quattro il puntino. Ma no, che mala sorte però sempre quella lì, e anda e torna, anda e torna, sta un po', una saluto, sta da poi si supera la nostra gabbicciuglia, non lo vedi, sta per lui, si va sta sopra, ma cazzo, si la biglia a luce, oramai. Magari ve la sopra che invece mangiene a poco. Pensa. Sì, ma se mi viene a tiro lo vede che lo si può tirare da San Marti, a chi fa lo bazzo, a usci. Ed è lunga la cosa. Se la lasciato dalla San Marti, che fa il muro di un palazzo, gli ammela in tuoia, così lontino. Però è passata là, ma visto, ragazzi. Aveva dentata, ha detto ha mangiato la carrellina, però mi mangia a te io, l'aveva detto. Ma io avrei avuto il giochista, che l'avvento, no, dai tabacchi sul vero muro, lo posso appoggiare, anche per io ce l'avevo con un panino in tre in bocca, vorrei andare dall'altra, avrei diviso il bongo, cacca panino e attento, lo posso vedere io. Allora, la voce non si impara. Allora, ma prima la felisco da voi, perché è nata la capricciola e mi dico qui, questa, lei è più viva. Uffa! Vai! Posso una vicenda da inviare, un buon gruppo di moralico se ne ritaglio una zappa. Chi sei una? La voglio ritagli un'ara, la posso soffrire, e dico non la dicevo. Mi è sadico a me. Vendicativo è questo, Ma questo si vuole vendicare, gatto, ma guarda un po' che personaggio questo, graziano, gatto. Ma poi mi devo conosci, e gli dirà culo. Ma voi, vai, non gli fate la pensione, e a te non ti guardi. No, che la buona è fare la vedo da un condizionatore all'altro, come è troppo io, così va bene lì. I compagni, le fratelli, le giurette, le primere bellissime. E infatti fate così, se tu ammazzi una borraccia, la picchi e i chivi non vi fa più, non vi ne fa più mancuna, E così fate la borraccia così, fare direttamente a chivi, Non so cosa l'hai fatto in campagna con chi da chi si mangiava lupi, no, e lo mangiate degli addini. E la rete tutto in alto, no, pure chi da Nido Vappi. E da sopra non entrava, però entrava a Malazzurri. La gallina è che quando scappavo in la campagna la lavora gli anni capisci che mi ha fatto entrava nei scia. E ho salvato ed entravano. Mangiava come ti piglia da carino avvicinando, il bruci si piglia, ma era enorme. Ma la lì come giusta l'abbiamo buttita, vabbè chi sa se l'ha mangiata la bui. Gli resti li ho messi lì le ali appiccati no, alla rete, e la volta non ve ne so più giunti. E chi sa se l'ha mangiata la bovale mai mezz'ora. È sicuro. E se no si canta manco un... Rosa, ma mi hanno regalato un gatto, di chi si giapponese da comando, mi ho detto, dirami. Me, la dell'Uriu regalato, ma chi siete al romantore che vede, no, non me l'ha voluto, no, uso il male, uso mio che tutto, dice che l'ammazzava tutti gli addini. Anche era un gatto da combattimento. Chi si sa male, Joe? Io via via però era normale, cazzo può che era male, ma la che mi ha proprio, ma di questo colpo di mano con le rocce a capo ha fatto l'ultimo che critica ha fatto, mi si curia a me, quando mi vedeva in treno, no? Che ha pagato i verani rubi, che mi si curia a rovore, mi si curia. E sono male, sì, dico sì. Questo era un gatto, un gatto da combattere, ma era mio rito, noi la mando questa già, ma di cazzo che tu la conosci subito, un gatto, e tu no, chi sono le voglio, no? Dici, chi sono ammazzato tutti gli addini? Questo era male, guida. Che da corretta era piccolissima tutti noi, il gatto, e se la cantava gli addini rotti, li pigliava a piccati a capo, una coppia, si cava la gran falla, ma poi si affissiva. Gli addini hanno per la felicità a pigliare, ma le uova buccava, no, si rimaniava se non la disturbava. E qui si mangiava la mangime che vira in terra. E ma ha fatto birifea chissà. E la stata una volta, non ce n'era scesa neanche più una. Perché tu l'hai appiccato le lettere di da curraccia. E lui ci convinse che andava in cucina, non l'aveva fatto di più una, oh. No. E anche il coso del cane nel bozzo, no, c'entrava quella lì. Quando mi diavo della mina, mi venivano mangiati lo gatto. Sì, ero cane che magari era pura, tu parava e mangiava pure lì. Ma la volta le è andata male. Sì, ma se dentro il pollaio c'era stato uno di quei galli lì che avevano regalato a me. Allora, mentre l'abbiamo fatto, hanno dovuto la curraccia l'abbiamo fatto. Volta c'era un buco, ma era un buco di vita a me, sai che da allora gli addini stanno in busta, ma non so così, si era la dalle muro, mi sa perché l'ho vista, era marrone, la gola longa, si partiva lungo lungo e fino fine, passava da un buco, dal busto, il gatto era un bugno. Era dalla di muro, ne passi, a me mi l'ha debellato, una volta era dalla di muro, no, che gli addini, ma io sono andato in mio posto. Non riuscì a sapere da onde entrava Marazzurri, gatta, che era tutto da fare, pure entrava la Martese, mi ha tutti occhi, ma io c'era a volte sicuramente. Un po' di volte non riuscì a sentire la gatta di Curugugio, Binzuloni, Murci, no, tutta sfratturata. E allora ce le buttavo quando le trovavo così. E non ho fatto, ci avevo messo tre pisi di retti, mi vira lì, pure quella nido di api mi c'era, quella fine fine, ecco, che c'è buchi piccoli, parasurti si abbia fatto un buco a strada, si entrava la Ibi. E chi se l'andava di un lui, sì. A chi la volpe non entra da un passaggio meno rindo. Sicuramente sì. Ma tu una volta molta mezz'ora non me ne ho tenuto più. Lui sembrava il gruppo, troppo puro da pure così con i buchi, ma come faceva un culo a pure da qui vedi che ha parlato mia santa di no. E chi su sì? E la mia madre con attesa ogni lì. Ma penso che cosa oggi non ne vale più la pena di pulirsi né addiri né bruchi. Uno che lo mangi me costa a me, anche se li procuravo mangiare così dal mazzata all'ingrosso, a base, pane giusto, sempre mangi me glielo dovevi comprare per mischiarglielo. Dunque è un casino di là, più tutto il travaglio, no. Vai a prima andare allo spaccio, compreso. E infatti, anche chi mette il cuore della faccia a 3 euro? Ma Gian Maria, cosa sta facendo? Ma sono di tutta, non sono ai nodi. Aspetta, io vengo subito. Ma avanti alla dentiera, chissà, per un vostro video. Appena mi verrà a tiro. E la mia piccata, lo dai, ancora ce non le vengono più un chili. La picco da un motore dell'aria condizionata all'altro, con l'aria a vista, non vengono per venire più. Sì, ancora per venire un chili, no, non per venire più, no. Tu la vedi, tipo neanche il panino, ma che cosa, ma non rientra su, non vedo quel pugno di luce. Me la laghi, mi rimasta tutta la fantasia. Certo che avviene, perché mi dall'albero del pino hanno tranca bisciuti ai qui, però un po' di volte va anche da quell'altra parte, no? Si vuole in punta a bruci. Passi ghegge, un'altra luce, sempre a paiteni, compresi. A che modo si magari tu sì, una testa già bisciuta, no? Perché io salto il terrato e sono già sopra il tetto, ho capito? Buro, si lo schizzo, si ritrovava nel tubo di scarico dell'acqua, cioè lo tappano, allora io le basso il cubo, lo mondo, Esatto. Mi sa da già alla gamba di minibusi, sa di io, se sa gamba sua, capito? E allora io lo pulisco anche le foglie degli alberi, quando va di vento, una caduta, io più luce che si mangiano, ma non sai molte volte quanto sa, grande troppo. Che signori borracci di mirazza, la vivi, si lo mangiano, hai compreso. E la bene, padre, io sono uccido, uccido. Quando vedo due bacche di carne, c'è già, non vedo che forse arrivare. Ehi, se te lo sto dicendo, siccome lì nella scuola ci sono 7-8 cani, è un bel niente che la riga gli avanzi, no? Me li dà da mangiare. E gli andano in irubura dei cani, no? Si mattano pezzi di carri, ghibi, pezzi di urci, panini, tremaini, focacci, burro. E poi ci vede sacco, ci vuole lì che ci rimagna, e state andando nel turno lì. Hai compreso? I due pacchi di carri vanno misurati, come si è fatto due viaggi, un pacco e un pacco, insomma un pacco mezzo chilo, allora a pisare e ci vuole forza per salire. A me da, quando stai della me che sta curaccia. Mica per te addosso, mi è più mannato di chi su cane che va giù, che quello che c'è è come uno chiscià, là, non taglia piccola, taglia media, presentacela. Che te lo cani se? Tu sai che ti vuoi cani se ti vedi? Guarda che una volta in Falegna Media c'avevo un cane che avevo trovato, l'avevo buscato sopra nome l'altro, anche un mi veniva con un'occa in bocca, con una iatina in bocca, infatti la via lì ha tipo questo, un caro racconto, lo facciera marro, l'aveva messo per sui cannelli, l'aveva liato un caro ruglio e bianco, e l'aveva messo il nome là, tra stasera e divise, perché la regavo da mangiare ai nonni, no? Ma non mi ha dato, quando non la vino, la regavo unta, e me ne veniva con un'occa in bocca, una giardina, sì, la poi pure io, di casa, la mese la mangiava lì. Poi non l'ho più visto, forse l'avrà sparato il pastore, perché i residui da una casa, uno va un bel buco, ne travagliavo io, e gli addini, occhi, oh, compreso, sicuramente l'avrà sparato. E una volta era andato da un cappannone, allora in questo mezzo, tre corracci a una base tra l'altra, e si appaziani, andai nei turreni, paravano, non beccavano, noi italiani l'ho detto di fuggire a seguito che veniva all'altra, dall'altra parte. Ho scappato il culo io il giorno, di non li faccia nella briccia. E non sappiamo i fuggire giusto, ad Arezzo e ad Arezzo, perché non gli davano tempo, capito? Arriviamo che dalla brezza, tutto quanto gli dava la brezza, ma quanta vita arrivi all'altra dalla riso, capito? Quanto mi ha visto tutta la scena, sono occupato, gli ho beccato un mosso di luce, e ci sono portati tutti gli altri in alto, un cappallone, a bai denim, qua, sai che tu cazzo è fuggito, ma ancora carriera perché sei stato un cappallone. Io ero qui, e la dice, la festa ti volevano fare, trova i 5 sì, giù. Te la vedo, cazzo, un affare vero, però era un sacco intelligente. Chi è un figlio? Tu che da quella mi ha fatto la pesce di bacione, ma la dice, perché a chi si andava a rifurare la roba? Sicuramente sì, l'unico da consentire a male adesso un bastone di Ghibli, perché non l'ho più visto, proprio per niente, ma stavolta era così duro, di maturi, vedi, mi diritti con un bifetto, cazzo dice, ho certezza se ho la bugia di una gatta, che è rimasto una settimana a me. Sta già da mangiarmi, allora poco giocava, mi la zia zampa, intelligente, canta in me fila. Poi è sparito anche quello, non l'ho più visto, si è riposato quella settimana, ha trovato a far cammino, cosa ne so. E sarà fuggito anche lui, magari, ho sentito. No, quello era fuggito, va via a rugolare, va via, poi era di razza quello, era bello, grigio era, cazzo, con il bifetto, cazzo Maria Gaburca, Garibaldi Maria, però era bello, intelligente, una settimana rimasta, perché non l'ho più visto. Infatti, chi si è fuggito anche lui sicuramente. Forse se fermo fa rifusati, anche mi aveva alisato un po' con questi mari, camminava pure male, e anche mi aveva lungo consumato, gli si andava in cazzo nella virenne, e ci ha riposato la settimana, allora come ti mi ha lo mangiavo, andando a zia, gli abbiamo cancito, e era gli ci abbia la ricavo romagnale, no? E i suoi bei due di minoriti, chi si cazzo sono male, mi pare così ma sono male. Anche lo uso, no, non mi è che riuso, ma tanto che si lo vedi, attacca mi dice, li cani mani, minori dimmi, l'attacca proprio. E io arriviamo solo con gli occhi sacchi, si capitava con un cane mio. E io dove lo buccava che era la che lo vedia che era minoretto, di pure lì. Li puniva la zampa in faccia e te lo mandava, vai, vai. L'altro che mi era morto si era attaccato sotto a non un pitbull, chi da che si assomiglia, ma non mi ha mangiato di già, ha fatto la panta e si era attaccato, cazzo devi vedere anche di correnti, cai, e chi ti ha attaccato sotto la panta, no, con i denti, mo sarei direi tutto. Così, come è lui? fatto a mettere io, l'altro che mi è morto, però chi era puro, era originale, perché era intelligente, Buruvici. Chi so chi tu dice, suonava la fisarmonica e cantava, certo che anche la peggio, c'era le fotografie. Ah, chi tu suonava la fisarmonica e tu cantava? Si sareva, no, si metteva a cuccia, lungo l'interra, dritto, no, lungo l'uso, e mi abbagliava, io, lontanato da piccolino, suonavo la fisarmonica, a bocca, no, in base come suonavo io, però suonavo alto, lui alto, suonavo basso, lui va basso, capito? Facevo se c'è un po' di lato e puliva le zampe in alto alla vece, cazzo si puliva a pini. E un amico mio trovava un micro per griglia. E la gente, beh, allora vai a casa e te lo posso venire. So che va dalle punte, quando sono uscito a lavorare, ma stavo a giubilato. E poi, io ho fatto, non ci credeva a me, si credeva che lui non prendeva il palo pure. E te, beh, no, io poi che ha pigliato. E la prima poi, c'è una parola di sopravvivere. Certo, non so che c'è rimasto di merda, è rimasto in cuccia a bocca a pesca. Non vi credia. Francesco con l'ordinanza. E poi c'è gli altri, no, il balletto sardo li facevo. Senti, c'è proprio a tempo di musica andava. No, ma mio marito è un cane musicista. E allora aveva la gorilla, ma mi ha detto che tu aspetta che dove la rega la gorilla, di voi, di palo, stella. Sento di la mia amico il capello, la busta da gorrisa. Sì, non c'è una gatta nei cani così, no? È raro proprio che uno riesca a maestrare così il cane. Da piccolino io, via via, sempre no, che in cucina, ce l'ho anche adesso, perché me l'ho comprata per imparare anche il turismo, invece è tolto per un cazzo. Ma ci ho provato un sacco di volte, e invece quello là gli piaceva, capito? Si voleva proprio lavorare. Poi questo qua l'ho comprata, allora, perché quella là quando è morta gli ho messa dentro la sua scatola, no? Era la Giulia praticamente, lei l'ho sotterrata in campagna e gliel'ho messa dentro, no? Anche la ciotola sua. E gli sta invece, ma chi ci fosse non interessa, bisogna cercare un cane io che mi abbia a chiedere fai di un giù. Beh, e chi ti magari mi abbia giù, però era bello l'intendivo venne le risate di me fazio a cadere a Pasalera, allora fate allo silenzio quello di razza tu faccia poi quando non mi abbia intendito. Si dava via la cuccia, si tappava con le zampe e un capo. Ma quando faceva così non ne voleva più ascoltare. Guardi, vedo quanta intelligenza di un cane. Era un bel bello, era, poi era bravo, cazzo, sta peccato. Allora, regando le rubiche al veterinario, a chi l'aveva regato in chitarra, ha fatto un'inezione e un flebo. Nella redazione, ragazzi, mi sono pompato un cane. Se ne poi Gesù lo torna perché non se ne voleva fare manco la macchina. Non si riusa già la mafia. Cazzo, sono agitata e mi è uscita e mi ha detto che è morto. Cazzo, mi era rimusso. A di me me la mangia questa veterinaria. Io, certo, passa a Passirucci, mi voglia regalare un chihuahua, la gente ha bordo di un padre da mangiarsi. Certo, e non lo so, tutto, ho pagato 500.000 lire la volta, ho pagato. Hai non preso. L'agrega. Il veterinario non questa cosa, cazzo, come si fate di pagarle. 500.000 lire mi ha costato il veterinario, e poi me l'ha dato un muscolo un cazzo. Io così non vedo andava. A chi dici che direttamente anni giù ha mangiato la medicina dei tuffi, la prima volta che l'ha ributtato, la di Matte. E l'ha rifatto, ma la banda gastrica e l'ha venuta. E la legione di Flebbo, ne ha derrigo a casa, da per me stata giusto, il suo cane si era gonfiando come un palloncino. Cazzo, ha giusto la frate e mettermelo tutto in fretta, glielo porto. Ce l'ha entrato dentro, ore e ore, i vinnici, mettere e ce l'ha fatta, è morto. Cazzo, io sono un ragazzo, l'ha rifatto. E vuol dire che abbia due, come ti ha, un rapporto di suvai con Nokia e aveva aiutato un cammino, no? E c'era questo cane che portava un sacco di soldi nel frattempo. E non pigliano mai che il cappuccio lo vai con in terra. Pigliano cane e si è arrenghito, beh, morto. €150 ed era dai denti, ce l'aveva da quattro in fondo. E riesce ad appigliarmi le sigarette dalla credenza. Aspetta. Ehi, adesso che non viene. E beh, grazie. Oh! E non sei cuzzinenti oggi? Oggi ho fatto, ma questa è la marinara. E te? Vai, vai. Da me, tutto è buono. Capita se è buono, e la brida un po' stesso, buono, la casa mi ha giocato. Ma se guagli, fa paoletta, a chi io non ne mangio. E la salsiccia, lo salsiccione, salsiccia, e la ricostruisce, e oramai la riattaglio pure, la riattaglio la griglia, la ricostruisce, si brucia da congelare e si sciuscio. Dimmi una cosa, e beh, e tu finora che tu cosa fatto di là? No, lo so, lui non mi ha trovato, no. Non lo so se ci viene stasera o domani. Natalia, va bene. Ehi, Natalia. Ehi, la sono qua già. Ti compri il tassello, ce l'hai? Ehi, dimmi, perché? Aspetta, che facciamo... Vogliamo sapere una cosa, un attimino. Ah, mi ha cominciato a già Natalia a guardare, a sapere chi ha il numero, lui, l'indirizzo, la pagina dei microfoni, anche per vedere, mi ha detto c'è altra stampante e me li faccio, e me li stampavo, per i prezzi e i tipi dei microfoni, e anche dei baracchini. Aspetta. Ah, prima pagina telecomunicazioni, Natalia. Aspetta, dimmi, tecnocomunicazioni, quella lì. Eia, vedo un po' questo microfono, il Prosel DM1000, vedo un po' quanto costa. Il microfono con eco da palmo. Chi è che sta fischiando? Mi credo che è giornata di caccia, occhio agli signori. Oh, occhio a chi pesticolata, mi la pareto. Però non sono riuscito a sapere dove cercare questi microfoni. Ehi, fatta. Beh, non c'è scritto microfoni, accessori, microfoni. E lo trovi subito, E lo trovi subito, Natalia, perché c'è qua c'è la fotografia. C'è un deviatore all'antenna, due microfoni, c'è anche un Asion AV su quel certe volte, il microfono d'attacco, là, delle radici su questo. No, quello là è il prosel. Il prosel di M1000, microfono con ecco da palmo. Boh. Ma sulla pagina del microfono ci dovrebbe essere. E aspetta che già l'ho trovato, vai, sto cercando questo proxy. Boh, vedo un po' quanto cosa, dai. Vedo un po'. Boh. Strano però questo microfono, c'è una scatoletta sotto con due rotelline, boh. C'è da palmo, strano però, Che ce l'ha Gianni, ce l'ha. Beh, come sono questi microfoni? Com'è questo microfono? Natalia? Beh, comunque vedo un po' quanta cosa, va. Ce ne sono Proxel, un lettero qui sui DM1000, non c'è. Lo stavo cercando. Aspetta che ho trovato un'altra pagina, vediamo un po'. Allora, mi DM1000, trovato. Ecco, visto? 29 euro costa il DM1000. Ma visto hai Mattia? Non è neanche chiaro, ma aspetta, quello con la camera ecco. Microfono con ecco DM1000, come quello che c'ha Gianni. E te lo attaccano loro all'apparecchio che vuoi tu, quando tu telefoni. Dici ad altro per l'apparecchio che hai tu e ti arriva già con l'attacco fatto. Ah, gli dice devo attaccare un barattino in uiti così. Proprio così. Il DM1000 costa 29 euro. Ordiniamo due, grazie, dai, ne ordino io pure. Ma per attaccarla a questo, che c'ho io. E tu? No, facciamo arrivare due, no? Uno per me, che mi serve per la pagliette, e uno per te, per i nuiti, capito? E ma lo devi dire, sono i nuiti, oppure il sciabrioso, per tutti i nomi. No, beh, i nuiti, 80 canali, così. Ma insomma, un microfono voi, o cosa sei, o un baracchino? Un microfono, ma Natalina ha detto, gli devi dire che a baracchino lo devi attaccare, così è Natale. Sì, a Gianni quando ti dico sì, arrivi a fare baracchino ti va, devi stare quasi fare un'ala 48, e me lo mandi con l'attacco per l'ala 48, compreso, e ti lo manda via così. Cioè, con le collezioni fatte, perché loro lo sanno come sono le collezioni dei baracchini. Tu e sì, mi DM6000 a Proxel, ma questi sono da tavolo. Ma tu cosa? Quello che c'ho io costa 150 euro. L'SM20 185. Quelli da tavolo? Alla faccia! E l'MB più 4 o più 5 ci sono lì. Ci sono da lì. Ma grazie, c'è tutto. Quello costa 45, grazie, 45 euro costa quello lì, te lo sto dicendo io perché l'ho visto. Ah, ma la camera ecco quello. E ordinavo Gio Mari, certo che andrà arrivi, 3 giorni per voi. 3 giorni arriva, e a me mi è arrivato ieri. Questo qua, questo microfono sto usando adesso mi è arrivato ieri, capito? Ci ha messo 3 giorni. E arriva subito. Ordinavo che arrivano tutti e due lì. Poi quando arrivo vengo me lo piglio. Possiamo fare così. No, adesso è chiuso. Telefono lunedì mattina, va bene? Sì. se costa la luce 29 euro. Più le spese di spedizione, però mi... Ma più la tesoro spese di spedizione, 8 euro. 4 euro per meno, a spese non viaggio giuro. Sì, infatti, per dividere assieme le spese di spedizione, capito? Quanto il pacco è uno. Il telefono così che mi dia quale apparecchio lo puoi attaccare, o ad un dia o all'altro, capito? Ok? No, allo zodiaco c'è quella camera, ecco, là già attaccata, no, a questo, all'inuiti. Ecco, all'inuiti allora, va bene, d'accordo allora. Dico, quanto hai speso di spese tu perché ti ho mari? Quanto spesa? Allora, mi corpo costava dunque 145, 145 e ho pagato 160. 145, 15 euro di spese hai pagato. Via, sì, 15, infatti, mi corpo costava 145, e più le spese, 160 ho pagato. E mi è arrivato ieri mattina. E praticamente sono 15 euro di trasporto, va? Esatto, dividimo in due, tanto fanno tutto un pacco, fanno, capito? E fate un pacco unico, diviso in due sono 7 euro e 50 per uno. Più 29 sulle 25, là. Ah, sulle 35, sì. E allora? Eia! Eia! Ok, speriamo che in collezione di aree bricchini non tocca appoggiarsi, quelli ci saranno più fine da un casino, così. Com'è, com'è? A te il collegamento uguale al baracchino ti è arrivato, l'hai attaccato direttamente. Pertanto perché l'ho detto a quel baracchino lo doveva attaccare, me l'hanno già mandato. Lo fanno, grazie, lo fanno, vai! Ma che sono gli inuiti vecchi, i giarosani, non è che sanno che gli inuiti di nuova generazione, no? E che sei preistorico. E tu basta darmi la sigla giusta e così che c'hanno tutto, poi più o meno sono tutti uguali, capito? Gli inuiti c'ha tutto un percorso, vai così Natali. E vai così, vai, e così, vai. È così, non ti devi preoccupare per quello, capito? No, se magari le collezioni sono diverse e bisogna più fili di Givi, capito? E quale sto per dire? Sono quattro fili d'entrata, cosa ne so? Se da bimbi la cartesia, è un'irata. Quello che voglio sapere, Natali! I microfoni sono tutti uguali, possono avere anche 20 fili, tanto sempre 4 non è rizzata. Ah, Lucia, no, siccome ci sono figli anche attacchi a sei figli, la Lucia ho male. Tu volevi dire che ne ha sei figli la tavu. Ma sono non sono per i baracchini, capito? Grazie, perché c'hanno altri contatti, per cui ma questi qua c'hanno quattro, il massimo c'hanno cinque figli, capito? Un amplificato di adesso sono 4-5 figli. Ah, sì, no, perché non lo sapevo io, perché poi questo è vecchio l'inuiti, non è di più moderni di adesso, capito? Ecco, quello che voleva sapere Natali, a chi dico non è di che vecchio un bel... vabbè, ma il microfono di alla 48 non ce l'hai tu, e proprio per vedere se va bene, se va bene l'attacco del microfono della 48 vuol dire che c'hanno gli attacchi degli omologati, perché gli omologati hanno tutti lo stesso attacco, invece gli altri ce li hanno da sotto a sopra, è una cavolata. E non lo so, vabbè, se si disegni così che sono tutti uguali. No, ti devi preoccupare, paghissi, gas, vai. Non ti preoccupare, paghisci. Ah, questo è dire. Ok. Ehi, a me, lui si ha salito le margheritine. Sì, allora, si butti più giù. Ah, e a Corcene, va a pulire il vasettino. Si tratta delle margherite, si butti giù, Come ti chiama? Sono tutto mutande. chi si deve fare un ganca? E a me ne ha ricordato, fallo meno. Chi cazzo mi ci vuole le buttoni da Nanzi, no? Ad appesa, no? Anche come mi vedete che si vede a te? Dopo fatto in mattinetti. Traffico radio fa il suo cristiano, cazzo. Non è possibile. Mattia, ma è deluso, deluso, io pensavo che fosse un'altra persona più, più adeguata, ma mi sembra che gira, non va bene, non va bene. Gira, te le cancelliamo dagli amici, da amico, Allora, cancellano tuo marito. Senta, ma ve la posso che io faccio dei bonini, che si gassetta, se non mi gassetta, a me che non nascio mai dosso, che si cazza grosso. Fuori di campo, bisogna poi sapere a Rovazio a fare la messa a punto, sennò non verrà bene, uè. Ehi, ciao Parchetto, ben sentito, buonasera, così è addormentato. No, grazie, ben sentito anche a te, ben sentito a Gio Maria, anche a... cambiate al centro pure con tutte le femmine e non sono mai contenti, la diritto si può dire con pareggio lui da questa volta vi va a dare un ganca un ganca non l'ha mai visto lo va a dare i francesi spiegaglielo tu Natalia. E arrivo in Russia, lo vado per Lucancan, e alle dime di Lucancan, per il muro in Russia. Ehi, apro il posto battaglia, io vedo il posto battaglia, Gio Maria, apro un baccone, ecco, batto Lucancan. Ma che? Ma che? Ehi, arriverà il suo punto, gira. Grazie, a te ti come appoggi l'infornata i suoi baccone, ma che si rola, che dici? Oia, non ti dico niente. Ciao, perché comunque, buonasera e ben entrato. Buonasera, Giovanni. Allora, che ti dico anche il suo graziano? Ci domani sapete a regalare un pirellino e un caffè e fuggito. A dirci la di qui, ma che andrà a Russia, che andrà a dormita, è fuggito. Di più, ti dico che non volevo. Per carità, ragazzi. Vabbè, va bene, realtà, chiudo, vai. Sentiamo alle prossime, eccoci da domani. Buon proseguimento. Ciao, Falchetto, buonasera anche a te. Ciao, grazie. Fai da bravo, e da farmi padre, ma non mangiano, Vitti un caffè. Tu, ti rubi tu un caffè da mano mangiano. E da assurvati che hanno usato di pesa, lascia la riposa a me. Ciao Rosi, buonasera, ben sentita e buon proseguimento. E buona mamma domani. Ciao Gio Marin, buon proseguimento di serata. Saluta anche alla tua 50 al QRA familiare, KK. A proposito, non me lo ordinare no, perché mi devo parlare su una giornata al mese che entra, ma prendo un altro momento quel microfono. Va bene, d'accordo. Va ok. E allora ci sentiamo un po' probabilmente in serata. Ehi, ciao, riprendi qualche. Ehi, ciao Giovanni, buon correnti, buon tutto, saluto a te la correa familiare. Avanti la farina. Ehi, capo, ciao. Giovanni, buon proseguimento, buon correnti, alle prossime, là. Io, se permettete, vado a prendermi un gran caffè. Cappa, cappa. Cappa di roccia. Allora me lo penso anche io che l'ho fatto poco fa già il tipico. Aspetta un attimo qualche, che io ce l'ho già fatto, me lo devo solo versare. Cappa, cappa. Allora... parte? Io sono qua, Ehi, un attimo, grazie, che sto entrando con te a Capico. Beia, Natalia, rientrato, e me la chiude a bicchio, prendi, grazie a noi. Ma tu quando l'hai preso così, assai mi pugna, pulizzare un aeroporto a microonde, 20 secondi, e lui ne c'è bollente. Già mi piace anche il freddo, l'ho preso, ho fatto poco fa, mezz'oretta fa, che filo era, già andava il mattese, no, ma già me lo vado anche il freddo, già mi piace, specialmente poi il chiu, andare via me lo vengo freddo. Il chiu andava in frigo, io non posso andare con il frigo, ma il chiu. Ripensandoci, mi ho detto a Gian Maria, cazzo, mi ho imparato la zona al mese che entra. Infatti gli ho detto, il mio, hanno ordinarlo per adesso. Ma non ce l'hai quello che mi dici quattro che ti avevo dato io? Sì, ma quello lì ce l'ha attaccato allo Zodiac, è collegato alla camera, ecco quello. E avevo fatto le collisioni a quello, le ho fatto le collisioni per la camera ecco, ed è collegato alla camera ecco, poi dalla camera ecco è collegato al baracchino, allo Zodiac. E questo è che gli volevo cambiare il microfono, capito? Questo è da Palmo, però se lo trovavo da banco era meglio, va, meglio di questo da Palmo, ma siccome Gian Maria mette quello da Palmo lì, c'è anche la camera e ecco, puoi andare pure. Ho capito, ma quelle MP4 li puoi fare una prolunga e lo attacchi sia uno che l'altro baracchino. Ma la prolunga la dove l'attacco io la prolunga? La prolunga la vai, una al microfono, uno spinotto al microfono e l'altro all'altro baracchino che non ha quel microfono da tavolo. E tu lo usi per tutti e due i baracchini, come ho fatto io. Io ho fatto la prolunga, al president posso attaccare sia l'MP4 che lo posso attaccare per esempio a questo qui, lo posso attaccare a qualsiasi altro baracchino che voglio io. Ma tu stai dicendo, a quel microfono mi avevi venduto a attaccare da lì la prolunga e mi sono verso le collezioni delle noiti, capito? Gli fai una prolunga all'Inuit per poter attaccare quel baracchino lì, basta un pezzettino di filo, uno spinotto femmina e uno maschio. E tu lo puoi attaccare anche all'altro. Non riesco a capirlo. Allora, quel microfono mi avevi dato tu, c'ha due usciti che posso attaccare due fili, così. Però le collisioni che sono collegate a quel microfono sono già predisposte per lo Zodiac. Come faccio a predisporre anche le collisioni degli inuiti che sono diversi? Anche lui lo deve attaccare, gli inuiti lo deve attaccare. Non ti la fotti nuda, si dice una crescita all'altro microfono. Sempre chi subito lo deve attaccare. Capito? Funziona sia nell'inuit che nell'altro. Ma di questa maniera devo fare dalla camera ecco o dal baracchino alla camera ecco come adesso questo e l'altro, lo Zodiac. Dalla camera ecco al baracchino c'è un filo, poi il microfono è attaccato dalla camera alla camera ecco, capito? Prego, sì, però tu il suo microfono lo puoi trattare in tutti i baracchini che ti pare ti piace, se ti fai una prolunga che ti dico io. Ad attacchi l'inuit? Non me lo ricordo, perché adesso gliel'avevo fatto io le collisioni da un bel, non me l'ha messo, se ha 4 o 5 fili all'inuit. Comunque già si può fare. giallo questo che mi avete dato giù, non lo voglio arruinare, me ne procuro l'altro, me lo compro e lo faccio separatamente, è meglio, da andrà bene mera come lei desidera, io già me l'ho fatto perché mi ha fatto la prolunga e lo posso attaccare con la prolunga, l'attacco al freezer. Se lui voglio attaccare i nocchi, mi cavo la femmina della prolunga e lo attacca ai nocchi, a chi va attacchi parecchio. E così posso fare pure un danno nel più tre, lui si attacca ai nocchi e pure a rubrire. Vabbè, vado a casa, mossa, piazza e tutto, no, faccio di da manila, me ne compro un altro, o me lo procuro e lo metto separatamente, lui ci cambia il curuvizio, un po' qua a parte, a se lo lascio e mi bilo lascio. Ho capito. Attenzione, Nasta Lounge, si ascolti qua. Se non ti ascolto ci devo buttare tutto, carissimo Gianni, già ti ascolto. Buonasera, ben entrato, uscito? Sì, buonasera, dai, sto uscendo adesso. E il borsello ce l'hai? Sì, sì, è davanti, è davanti. Ah, lo sai, se si butti una voce azzurro, anche come te lo rovino. È separato, ci metto le chiavi dentro, così quando va a cercare la chiave della chiave se non le trovo perché non c'è il borsetto. E fai brutto vecchio, te lo metti davanti, a fianco a te il borsello vuole, in terra, non succede, in terra vuole il borsello. Ma avanti, Graziano, una buonasera. Ciao Gianni, ben sentito, perché cosa hai perso il borsello? No, negativo, ma non sono dimenticato il lavoro ieri, dopo che ho fatto la giornata di lavoro, di stanchezza, sono dovuto riuscire a portatore a riprendermelo. Perché lo trovassi lì a dare un vinto? Io quando lo usavo lavorando ce l'avevo sempre legato in macchina, me lo giravo a un fianco, sempre lì a domani per la via, perché dentro ci mettevo la patente, le chiavi della macchina, gli occhiali, capito? Dai, non parla lui, la sua borsella, è comodo, ma te lo dimentichi da tutte le parti. Però devi mettere a un fianco, quando ti siedi in macchina, lo gira a un fianco e te lo lascio sempre legato a quinto. Cioè, era che a me mi era capitato, ma me l'avevo dimenticato in campagna, capito? Le chiavi erano attaccate alla macchina, e forse non me l'aveva lavato in campagna, sono dovuto riscendere, perché c'erano gli occhiali, la patente e tutto quanto, capito? Si mette tutto nel borsello, è comodo per quello perché c'è tanta roba. Se lo prendi, ma lo riprendi tutto, E infatti tu per non perderlo, tienitelo sempre legato a un quinto, io quando ci appura un cane con un furgone, lo facciamo sempre legato addosso. Oh, quando lavoravo me lo giravo di fianco, quando ero fuori. Vedi, mi hai cognato, l'ha appoggiato il natale con lo scotto, lo cane, entrato, lo va, piazza di sigarette, gli dico al gomma. Torna a cielo per abbrumare subito il natale con lo scotto. Hai ritratto via, patente, documenti, 2600 euro. Il vestirale è sparito, ma 5 minuti. Non fa cazzo. No, e allora, perché c'era lo sportello aperto, sempre il musico minuto è entrata per la visita e te ce lo vira più, hai capito? E i documenti avanzati dai la posta? Nulla, non posso fare documenti per patente nuova, carta d'identità, codice fiscale, un casino! È quello, la rottura di scatola è quella, è quella documentazione. Documentazione, senti, surrati, viati e dina. Lo so, grazie, è così. Tu dunque, tienitelo sempre legato. Io perché mi devo capo quando arrivi a casa. Andiamo a lavorare, appoggiamo sulla mensa. Sì, ma tu fai un marciuppio, io faccio un borsello, mi si può mettere ancora, grazie, non mi vedo l'euro. grandi, no, il marsupio ad opera, già ci sono anche più grandi o più piccoli, con il borsello viene male, c'è via un marsupio. Sì, ma mi sa di bucarlo franchivi, per il borsello si sta più roba, grazie. Allora ti raccolo. E dai che ne ho uno io di marsupio, se tu vedi canta in mano, mi sa di più roba del borsello d'olio. Chissà che è male, uso l'altro che è più piccolo, che ci sa portare poi gli occhiali e gli occhiali tranquillamente, le sigarette, e l'altro sono un po' grande, non lo uso mai. No, raga, vai ormai vai, io ho l'altra energia, ce l'ho qui, c'ho sempre roba, non ci sta sicuramente, perché sono cose grandi, portare fuori le grandi, capito? Se ci paghiamo in mano, non mi piace malissimo, tu mi hai preso quel borsello, l'hai trattato di voi che ce l'hai tutto lo caso, anche non mi piace. E uso sempre lo stesso quel marsupio là, e già ce ne fa roba. È una questione di abitudine, capito? Ma devi stare attento, se te lo dimentichi si è frisso, Me lo gioco. Ma io me lo dimentico sempre a lavoro, non si può, se no, perché già lo sa, mi la credo, me lo metto sempre vicino per lo dimenticando, anche voglio la paranoia. Ma a lavoro me lo dimentico, perché lo leggo, non lo leggo nel cassetto della scrivania, nel magazzino, e me lo sono dimenticato, capito? Un attimo, Emi, te l'ho detto, mi hai cognato, sì, mi manco di comunque, se fermo, e poi là, entrando, la prima sigaretta è uscita e non puoi la più. Ma raccontate, lo dico io, è andata a scaricare a Città Mercato, c'era un autista prima di lui, stava scaricando, e lui era dentro, mi stava aspettando, mi sono questa volta arrivando, questo che ha perso lo sforzo nel campo, ci ha guidato, lo conosce, e si è fuggito. E quello ha detto, ma scusi, quello lo conosce? No, non lo conosco, prendete, e lui scappa di moto. Tutti giù borsello, perché fanno così, lì qualcheduno abbia passato, magari era brutto una piglia di dieta, abbia chiuso il borsello, abbia il borsello, si era perché la macchina se ne è andata, ma così è che sono entrato a pigliarsi, non hai compreso. Ma sono caroni, a me le documenti li possono fare riavere, sono caroni. Come ti dici che ne hai fatto vedere a me, che ne hai fatto riavere a me, i pezzi di salita dove giù dove tu va, poi giù messo un po' di foglie per tutti i documenti, poi lui, c'è la sigarita giù dove tu passa. Ma te la sto dicendo che è un casino, a parte il casino, che tempo perso se sta lavorando è un casino, e poi soldi anche, perché vivo in Buru di Napoli per fare tutti i documenti, e va bene la città. Soldi già ne avevo cucchi nel portafoglio, ma ho perso il portafoglio e c'erano tutti i documenti, altro che quelli ho speso i soldi, che c'erano, mi pare che erano altre centinaia di miglia franchi. Però viene la patente, chi la cadente, un caso qua, ci rimaniamo per carta d'identità, tutti i documenti ci ho messo. L'unica cosa è che ho salvato il porto d'arma, perché il porto d'arma ce l'avevo nel giubbotto da caccia, capito? Quello l'ho salvato per quello. E poi secondo chi mi ha fatto truffi, noi siamo le bica per dire, lo mette in una cassetta delle poste o in evidenza che la ragazza già che lui non è stato in là, invece ce li buttano proprio. Se sono bastardi, e poi o se li possono anche usare i documenti, per quello che uno quando li perde deve subito denunciare che li ha persi, immediatamente. Perché ti possono capitare dei guai che tu manco ti immagini perdendo i documenti. Beh, poi la rapina è si rampare i documenti giù, la rapina è rompere la ballata a chi non lo gioco. Si tratta l'analisi è come si ritratta, oppure gli tratta la fotografia nel mondo di un'altra, andano e pigliano il finanziamento, hanno messo lui e tutti li facciano in carta di città, codice fiscale e patente. E sì, allora diventa un po' umani quella patente che creava. Ehi, non ti credere, no, l'altro giorno c'è la notizia, stavo facendo vedere le patenti di adesso, false, mi le stavano anche spiegando alla finanza, da dove si vedeva la patente, quelle di adesso, false. Cazzo, quindi si sorprende. Però vabbè, che sono mette le carte di credito, come hanno le carte di credito dopo le trovano la patente. Fa una fotografia, già dice. La grande è la grande battaglia, lo so, facendo vedere e spiegando che le patenti false lo so quanto non hanno ritirato gli incontinenti unire le rane per i piedi e che te credo se si abitava mica nei fasulli mi ne abbigliavano subito e beh è logico cazzo falsificano le rinato stati di tutti e si vanno stati nelle battenti cazzo ma buffoni sì. A parte le pure di nala di le 50 euro, le 500 euro ha fatto vedere, false e originali. E infatti allora mi fate le macchinette, ma le coricini che non sono false insomma. L'hai visto tu al televisore già, l'altra settimana l'ha fatto vedere. No, non l'ho visto, però ho visto i soldi falsi, perché ce ne hanno rifilato qualche mazzetta di soldi falsi, qualche pezzo. Ehi, ha fatto vedere la finata, vedano i riquadri, no, e 30.000 lì, il falso e il vero, ha fatto vedere le 50 euro, le 20 euro, le 10 euro, le 5 euro, le 200 euro, i falsi e gli originali. Solitamente si conosce dalla carta, che è diverso un po'. Dalla carta, e poi ha fatto vedere pure una truffa di lui che gli è andata in banca a ritirare 1.000 euro da poi e se è potuto raccogliere uno che la vende a vedere che ha ritirato la telefonata si è appassato no la complice fuori gli ha deciso con fuori le fogliette per gli abitanti è deciso dalla banca con borsetta con documenti in mano questo è il bambino una volta l'ha detto che aveva sbagliato con collega Giulia Liga che con la mazzetta di soldi ha preso dal cassetto sbagliato che l'aveva fatto lui l'ha pizzicato lì in aprile e gli si è ritirato le 1.000 euro forse chissà che ne ha abitato che è andata a un negozio a comprare chi ha detto la mazzetta pazza. Un colpo l'è giunto a Isabella, 1.000 euro, questo tipo non si appostava, si appostano vicino alle banche, no, quando vede i vecchi tribuni in appro, se la beviata nei 30, se cambiare da cucciare a baita, no, si ritira lì là, la bevo, un complice pura, la telefona gli ha fatto l'invito alla magagna, la complice, e l'hanno fregata. Voglio entrare tutti, profura! Sì, no! Certo, provato ogni prossimo che mi ha pigliato Guida, quando Guida va a tirare le basse di chi si dirà, dice, se sto scendo dalla barca, non mi sono messo in barca, e Guida l'ha detto, un attimo che chiamo i carabinieri, e il papà ci ha fatto i carabinieri, e gli era arrivati, perché poi gli ha rifilato 1.000 euro false, capi? E le vere si l'ha pigliati. Si la gara, Tittina, ui ui, le stanno inventando di tutti i colori. E che sono più bella di Messico che per non ti trovare se ci faceva la linea. Che bacco invece, che si lui, signora un pacco di cielo odiato nel cima qui il nome del cugino di buono salga a vedere. Quindi c'è da pagare signora 50 euro e, 250 centesimi. Chi da massa l'ha dato 50 euro e 250 centesimi? Quanto l'ha dato di ragazzo ci dà il raccio di palla, la casa di Sabro Bacca, 30.000 anni cantoni, vita. Ho raccontato una cliente che una volta non sono andato al campanello, c'era la mamma che è paralitica, quindi non c'era rotelle, e è andata a ritirare la posta i soldi della pensione, e ha ritirato la sua e quella della madre, e praticamente dice che questi qua non sono andati, cioè signora c'è un telegramma a firmare, può scendere. Allora, appena la sera la chiamo a pizza, la voce della sera con tutti i denari sopra la mobile all'entrata. Quindi una si arrappeli a questi vaiani, appena la voce è stata normale, la mamma con i denari, appena mi viene in anni, la mamma e i suoi. Ehi, perché ti mettono appresso adesso? Ti controllano, l'hai compreso. E tenta, non ti sto per tutto e te li frega, noi. E sono professionisti, capito? Sono professionisti. Perché qui l'hanno che hanno fatto le facciate ce l'hanno i ponteggi, in quella palazzina più giù di me, e chi sta dentro casa, mi sono affatti di dirmi chi sta dentro casa, mi hai provato di là sotto un naso, chi sta dentro casa? Oh, ci sono sempre, ci saranno, prima le pubblicità valevano di meno, magari adesso di più, ma gli imbroglioni mi sono sempre stati. E allora tu hai trovato il fendino cascato e ti vengo il subbollo rifinendo da me morire un aspirapolvere 2500 euro, l'ha fatto qui come aspirava nel letto. Che credi su, cosa mi fate? Se la ti faccio sgambettare, è veloce, è burro, 2500 euro, dice non mi deve dare niente, mi firma il foglio, dice, della finanziaria, ma no, Fernandi, ti va bene che da presto la dai giù, i nostri vicini rubano, certo per il paesaggio ha ciammato subito strada. Ma tu mi dice della fuori? Ah? Marco, se poi voi eravate presi al discorso, non lo so se avete copiato o meno. Cara gara, mi sono fatto anche la tabella per quando faccio i DX, per scrivere tutte le cose, la posso scrivere o computer oppure a mano, me ne ho stampato un paio di copie e quindi le posso fare anche a mano. Ah, ciappa di noia, ciappa di noia. No, poca preparazione, Luce, vero? Già sta facendo bene, forse chiasso a casa, la racchiglia sarà a casa. ci va a tirare la rasura. Addirittura. Pure in cui va, cazzo, io lo devo comprare un taglio di sacchi, no, che a chi così era manco, quando lo va giù legna, amico. E poi gli adulti, adulti come a te, già te lo posso vedere, cazzo, tu bruci il sacco, no, e si incendia di sa cosa. E fa una traccia da sola. Ma già metti così nei giragarri. È fatto apposta proprio questo carbone così. Ehi, ma ti sto dicendo! come lui funziona da solo. Tira via il sabugno da prima. Ah, vedo, ma è una cosa buona, vedo, allora qualche popolatore, una cosa buona, vedo, a casa si muove un sacco, le cinesi, un sacco di apposta. Pizzare, è buono, è buono. Ehi, non lo devi neanche aprire il sacco, tu mi dai fuoco al sacco e funziona da solo. E grande atteso di tagli, no? Tu vuole la graviglia in alto e tu cucini a livello. Ah, pizza cosa buona, bella invenzione quella, la sigla l'ha inventata, ormai inventano di tutti i colori, inventano. E la tecnologia più andata, ragazzi, più andata si sta sviluppando veramente. E non credo, ci abbiamo avuto attaccati, sì, dell'isola dei famosi, mi ha fatto le formule. Yeah. è tutto voce, dai. Ehi, stava a lui, a Paiuto, si va a telefonare a mia cognata, gli dico, dove l'hai comprato? Ma dici che mi pare che era di Donald, mi pare che ha detto, ma era a telefono, vado sicuro, e così era appunto sicuro. Così mi dice, come ti chiama è tutto. E vado appunto sicuro, e te lo faccio vedere adesso in funzione. Posso dare la mano? carità di Dio, no, sta circuitato, è andato, ha circuitato, è andato, ma capita, se vai a fare un caffè e tu non lo fai, che cazzo vuoi allora, vai, se c'è la notizia, vai. Perché la bianca la fa blì. E come ti dico, va a te. se sono andato in Francia, se la prende, lo battesse. Arrivate, lo compagno, mi vai sotto al ponte, ti muore, è quello che devi fare. E poi non ti preoccupare. Casa passa di sentarmi, papi, ehi, dice, beh, papi, la fino cantone. E chi ti vuole i documenti, però? E chi dice no per si dove il papì l'ha preso il cantone, dice papì e papì. Mai una volta che mai si è invitato a casa sua, ti immagini? Ah, carbone, avanti. Cattolo voi su carbone. Chiuso, passo via. E non fa nulla, ciao ciao. Ciao ciao, passo via. casa qua. Grazie a me, non sta cambiando, mi vediamo domani mattina di sabato.